Déjà vu con Mary Catalano. Just for one night, let the stars decide where we belong. Maybe heaven right now is a devil or angel away. That won't change. Together we vow that our colors will sparkle the fame. And I will find you. Déjà vu su CRM Happy Radio. Ebbene sì, e comincio un nuovo appuntamento con Déjà vu con Mary Catalano su CRM Happy Radio. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Oggi la giornata è splendida e questo fa sì che tutto si svolga nel migliore dei modi, cioè c'è l'atmosfera giusta. Poi se succedono cose negative, beh, dobbiamo cercare di scacciare via la negatività anche sorridendoci sopra, dai, cerchiamo in qualche maniera di fare così e magari allietando il tutto con la musica che naturalmente vi accompagnerà insieme a me sino a mezzogiorno. Mezzogiorno di fuoco sarà oggi perché fa caldo, eh? Se fa caldo in questo momento che sono le 10:19, figuriamoci poi a mezzogiorno che la temperatura sicuramente sale, no? Si sa. Beati quelli che in questo momento ci ascoltano mentre prendono il sole in spiaggia, beati voi che avete questo tempo questa mattina di fare questa cosa e prendetevene anche per me una bella tintarella di maggio che non guasta assolutamente per chi può permetterselo. Per qualcun altro invece bisognerà aspettare sabato, domenica, insomma i giorni in cui magari non si lavora, vero? Oppure fra una pausa e l'altra, magari che ne so, nell'orario di pranzo, quando

You're so fresh to death and sick as cancer. You're so dumb, but I grew up on a topic. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, buongiorno e bentrovati, siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano con voi fino a mezzogiorno. Buongiorno proprio a tutti quelli che in questo momento stanno guidando, che sono in auto, che lavorano e sono sempre in viaggio. Salutiamo dovunque voi siate, veramente tutti. Vi ricordo che ci potete seguire in streaming al www.crmhappyradio.it, il nostro sito internet che vi consente appunto di seguirci dovunque e comunque, e naturalmente fare anche le vostre segnalazioni musicali tramite la finestrella che vi porta dritti dritti all'accesso verso appunto le richieste per le vostre canzoni preferite. E poi non dimenticate il 335 56 37 251, un numero per gli sms e un numero fisso 0921 92 32 92, che potete usufruire. Bene, detto questo, sono pronta per darvi una notizia super tecnologica. Si stanno testando delle auto, quelle senza pilota. C'è un test in Nevada e infatti Google accelera verso questo futuro imminente, e in Nevada è stata emessa la prima licenza di prova per le auto senza pilota. Secondo il Las Vegas Sun, la tecnologia di Mountain View controllerà frenata, accelerazione e sterzo grazie a un sistema che unisce un software di intelligenza artificiale, un sistema di posizionamento e una serie di sensori per guidare l'auto nel traffico. traffico. C'è solo un intoppo però in tutto questo: i regolamenti nel Nevada richiedono che nella vettura siano presenti almeno due persone, e mi pare anche giusto, almeno per i primi periodi bisogna testare veramente se funziona, altrimenti sono guai. Però la tecnologia avanza su tutti i fronti e anche in questo senso, e avanza la musica italiana qui su CRM. Arriva Paola Turci con questo splendido singolo nuovo per lei, Le storie degli altri. Le storie degli altri ci insegnano la nostra, la vita è una domanda, la fuga è una risposta, tra giorni di vuoto, difficili da colmare, e giorni di piena, carichi da sprofondare, ma le storie si sa, sono i nostri sogni, e i nostri sogni si sa, sono la nostra vita. C'è qualcosa di me che non ti so nascondere, c'è qualcosa di me che ti parla d'amore, non c'è distanza, non c'è assenza. Di luce dentro un giorno, come di luce dentro un giorno, e ti vorrei raccontare del doloroso crescere dall'altra parte del mondo, che come sai porta lacrime, ma ci spinge ad andare, ci spinge a cercare, ci spinge a provare, a ritornare, a sognare, perché i sogni si sa, sono la nostra vita. Radio. Un saluto va a Samuela che ci ha segnalato questa canzone che in questo periodo sentiamo tanto e che ci piace, che ci dà energia, Titanium, David Guetta, e naturalmente Samuela distesa sulla sabbia prende il sole, figuriamoci, manda un messaggio e mi dice sono qui tranquilla tranquilla, mi sto abbronzando i primi giorni di sole e voglio sentire qualcosa che mi porta proprio aria d'estate, e quale canzone migliore di quella che abbiamo appena sentito, grazie a Samuela dunque che ce l'ha segnalato. Ma stai attenta, non prendere troppo sole, soprattutto fra poco vai a casa, perché poi c'è il momento in cui il sole sarà veramente caldo, e con l'arrivo del sole, del caldo, spesso ci si espone al sole senza la giusta protezione, e ci sono però alcuni consigli pratici degli esperti per non farsi cogliere impreparati dai raggi del sole. Uno degli errori più frequenti che facciamo con l'arrivo dell'estate, sono praticamente tanti gli errori che facciamo, no? E uno di questi è esporsi al sole con una full immersion da weekend. Si passa dallo stare completamente vestiti a gettarsi sotto i raggi del sole per alcune ore e poi di nuovo una settimana in ufficio e così via, no? Il più delle volte senza protezione solare, per paura di non abbronzarsi. Insomma, un altro errore è non rendersi conto del contesto in cui ci si trova, perché una cosa è fare una passeggiata all'aria aperta e un'altra è stare una giornata intera, che ne so, in barca. È evidente che bisognerà scegliere un solare con una protezione adeguata alla situazione e alla propria pelle. Non si deve solo tenere conto dunque del proprio fenotipo per scegliere il solare, ma anche del proprio fototipo, e cioè come la pelle reagisce al sole, perché sotto il sole non siamo tutti uguali e le esigenze di protezione cambiano. I bambini devono usare prodotti specifici che mantengano la capacità filtrante anche in condizioni particolari, per esempio giocando in acqua o rotolandosi sulla sabbia, e i ragazzi con acne dovranno scegliere un prodotto che non sia grasso e che oltre ai filtri solari contenga anche una sostanza sebostatica, e che oltre insomma a tutto questo abbia anche coadiuvanti. La terapia per l'acne, questa qua è proprio da seguire, è importante questa regola. Chi teme il fotoinvecchiamento o comunque è avanti con gli anni deve scegliere un solare che contenga molecole antiradicaliche o antinfiammatorie e sostanze in grado di idratare e nutrire la pelle, meglio se con un rapporto di protezione abbastanza elevato. Insomma, dobbiamo tenere sempre conto di questi accorgimenti che ogni tanto ci piace far finta di dimenticare, per, pur di avere una pelle dorata. Dobbiamo invece prestare molta attenzione, perché dice Stefano Manfredini, direttore del Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell'Università di Ferrara, dice: gli UV non solo danneggiano le cellule, ma deprimono il sistema immunitario, generando la cosiddetta fotoimmunosoppressione, che parolona, che consente alle cellule modificate di continuare a proliferare. Per questo un solare dovrebbe, da un lato, limitare la quantità di UV che impatta sulla cute, dall'altra aiutare il sistema immunitario opponendosi alla fotoimmunosoppressione. Mamma mia, ragazzi, dobbiamo proprio stare attenti, vi raccomando. Intanto, nel frattempo, sentiamoci la bella musica di Vasco Rossi, un'altra segnalazione al 3355637251, e questo è un singolo che conosciamo benissimo, non c'è bisogno di presentazione, lo sentiamo subito. Vasco Rossi a CRM Happy Radio. Piacere che si muove lento, ombre tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole e muove. Ho un pensiero che parla di te. Vasco Rossi, che scrive tante belle canzoni di amore ma non vuole saperne di sposarsi, se non per una giusta causa. Non ha cambiato idea sul matrimonio, ma non può permettere, dice lui stesso, che Laura, la sua compagna, abbia poco più dei diritti delle madri degli altri, che naturalmente gli altri due figli, insomma, che Vasco Rossi ha avuto da altre donne in materia di successione. Vasco Rossi torna su Facebook dopo l'annuncio ieri che sposerà in estate la sua compagna e dice: sono sempre convinto che un rapporto non deve essere un legame o un obbligo, essere liberi di andarsene in ogni momento e rimanere uniti è una continua testimonianza di amore sincero, ma la burocrazia e le leggi non riconoscono gli stessi diritti a una donna che vive con te da 25 anni se non è sposata. Laura non ha mai chiesto niente, ma io non posso permettere che abbia poco più dei diritti delle madri degli altri due miei figli in materia di successione. Queste sono state le parole di Vasco Rossi, che ha continuato dicendo: ho deciso di regolarizzare il rapporto e farle avere legalmente i diritti che merita, tutto qua. Quindi non si tratta di Vasco che ha messo la testa a posto, o Vasco che ha cambiato idea, oppure ancora Vasco che ormai è rincretinito e si sposa a 60 anni suonati. Si tratta proprio di questo fatto, cioè questa motivazione dietro al fatto che Vasco Rossi si vuole sposare. Per quanto riguarda la cerimonia o il rito privatissimo, perché insomma noi lo consideriamo, aggiunge Vasco Rossi, semplicemente una faccenda burocratica, non certo una festa particolare. Queste sono le parole di Vasco Rossi, che aggiunge ancora: ho pubblicato subito la notizia io su Facebook, perché tanto sarebbe uscita al momento delle pubblicazioni, che come sapete sono obbligatorie e vanno esposte 15 giorni prima e sono pubbliche. Queste sono le dichiarazioni di Vasco Rossi direttamente su Facebook. Benissimo, ci facciamo ogni tanto anche gli affaracci degli artisti della musica, e però sentiamo anche della bella musica, questa volta del Maroon 5 con un nuovo singolo che si chiama Payphone, un'altra segnalazione. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm out of pain, but I'm trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales I'm full of. Why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing? Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit. Hey, I'm out of bed, I'm trying to go home. All of the change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all gone. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding. Happy Radio. Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi ti potrei raccontare, ti donerei i miei occhi perché tu possa vedere nel buio antico del mio cuore, nel buio antico del mio cuore. E a piedi nudi camminare sulla mia terra, madre di tutti i figli, ti mostrerei il suo corpo ferito dagli artigli di gente venuta da lontano. Ti prenderei per mano, io ti prenderei per mano. Troppo lontano, guarda lì, tutti i miei sogni stretti in una mano. Dividerei il mio pane, ti mostrerei le danze, ti bagnerei con l'acqua più preziosa del diamante, nella casa dei padri, di guerrieri antichi, di regni perduti e di re dimenticati, di misteri e segreti tramandati, di mano in mano. Dalla notte dei tempi e della voce dei tamburi, ad evocare i santi e di regine di vento e di tempesta, di quel che era e di quello che oggi resta, di quel che era e di quello che oggi resta. Troppo lontano, guarda lì, tutti i miei sogni stretti in una mano. Se solo mi vedessi quando ti guardo passare, se solo lo volessi io, ti potrei parlare dell'ultimo tramonto negli occhi di un bambino e di conchiglie padrone del destino. Ti porterei con me per mostrarti tutto questo cammino. Fermati, non andare troppo lontano, guarda lì, tutti i miei sogni stretti in una mano. RM Happy Radio. E sicuramente molti di voi ricorderanno Europe e questo singolo memorabile degli anni 80, The Final Countdown. E chi se li ricorda negli anni 80 con i capelli cotonati, avvolti in vesti coloratissime e con quel filo di trucco che non poteva mancare mai, farà forse un po' fatica a riconoscere Europe in questi 5-6 Men in Black. Proprio così cambiano look per il loro nuovo lavoro discografico, capello scuro e liscio e anche un filo di barbetta incolta. Proprio così si intitola Bag of Bones il nuovo album dunque degli Europe, che è uscito già il 2 maggio scorso. Joey Tempest, il leader degli Europe, torna insieme ai compagni con un lavoro molto improntato al rock anni 70, lontano nello stile dai successi come The Final Countdown, quello che abbiamo appena sentito. E loro dicono: oggi ci muoviamo senza pregiudizi e da quando siamo tornati insieme abbiamo toccato quasi ogni genere e ci manca solo il reggae, ma chissà, un po' ci scherzano su questa cosa. Intanto nei prossimi mesi saremo impegnati a sentire, seguire questo nuovo lavoro discografico degli Europe, che tornano alla grande, devo dire, dopo tanti tanti anni di assenza sulla scena musicale internazionale. Ma per Joey Tempest e soci il tempo è stato clemente nel fisico, perché al di là dei cambiamenti la forma è praticamente invidiabile e nell'ispirazione musicale sembra che vi siano dei rinnovamenti, anche se si riporta comunque al genere anni 70, però sempre ovviamente con la nuova tecnologia musicale che non potrà mancare all'interno di questo nuovo lavoro discografico per Europe. Intanto Joy Legend, torniamo ai giorni nostri con il nuovo singolo per John Legend, Tonight. Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you miss that. What's wrong, let me fix that. Twist that, baby, tonight, the night let you know, baby, tonight, the night we lose control, baby, tonight, you need that, tonight, believe that, tonight, I'll be the best you ever had, I don't wanna brag, but I'll be cigarette smoke, and now the bed's broke. So what we gonna do now? Fuck it, round two now. Work it out, then we cool down, cool down. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Knowing me and you got that mental telepathy, meet me up at the spot, I'll be sending over the chauffeur. Rich nigga, bread stay popping up like a toaster. Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any weather. Except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. And yep, I keep you warm, it ain't a chinchilla. She know I beat it up like the Thriller in Manila. Flying my private jet to villas in Anguilla. Then throw you on the grill, that's cause 7 days a week, you're my 5-course baby, meal for real. I'll be in the back.

schiaccio in un'aiuola, casco e non mi pazzo. E l'occhio ride ma ti piange il cuore. Sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Piange il cuore, sei così bella ma vorresti sparire. In mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche il dolore, senza lasciare tracce. Nell'occhio ride ma ti piange il cuore. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Sa perché ti sei svegliata. Un saluto va a Paola che ci ha segnalato Cesare Cremonini con il nuovo singolo Il Comico Sa Che Risate, al 335-56-37251. Siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano su CRM Happy Radio. Avete un cagnolino e non sapete dove lasciarlo, ogni tanto volete uscire, vorreste lasciarlo a casa tutto solo, da adesso potrete farlo, perché a controllarlo se volete c'è Skype, proprio così. Skype può essere usato anche per controllare il proprio cane rimasto a casa. Se avete la necessità di monitorare il vostro fido, sappiate che potete chiamarlo su Skype. Certo, sarà difficile pretendere che il cagnolino clicchi per rispondere, e in effetti toccherà a voi fare in modo che la videochiamata porta buoni effetti, cercando insomma di far partire automaticamente la videochiamata cambiando alcuni settaggi del programma. Basterà avere la webcam attivata sempre e cambiare le impostazioni di Skype PC, e quindi potrete lasciare tranquillamente il vostro cagnolino per qualche ora a casa senza avere il pensiero o il rimorso insomma di averlo lasciato da solo, senza sapere che cosa può combinare da solo a casa vostra, no? Ok, andiamo avanti con l'altro appuntamento. Adesso è Corner Shop, Brimful of Asha. Troppo simpatica questa canzone, che ogni tanto ci piace riproporre per accendere sempre di più questa splendida giornata di sole di giovedì 10 maggio. There's dancing behind movie scenes, behind movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past evening to the end of the life. Grim fool Asher on the 45, well it's grim fool Asher on the 45. Don't care. care about no government warning about that promotion of the civil life of the dams they're building. Grim fool basher on the 45. Well, it's a grim fool basher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Mancano 30 minuti a mezzogiorno alla fine di questo appuntamento, all'inizio invece di un nuovo appuntamento con Filippo Glorioso e il programma Carta e Penna. Oggi in via del tutto eccezionale ci sarà ospite in diretta telefonica Jerry Calà, proprio questa mattina a partire dalle 12.30 all'interno del programma Carta e Penna condotto da Filippo Glorioso. Ospite, come dicevamo, Jerry Calà per presentare in anteprima il film in uscita il 23 maggio al cinema Operazione Vacanze. Jerry Calà torna sul grande schermo dal 23 maggio con il film Happy Radio. Delivery. We got some movies, refreshing. for nothing if your checks are free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing. Indimenticabili certi singoli come quello che abbiamo ancora in sottofondo, Money for Nothing in Dire Straits, qui su CRM Happy Radio, grazie alla segnalazione di Stefano al 335-56-37251. Vi ricordo ancora una volta che dopo Deja Vu ci sarà l'appuntamento con Filippo Glorioso, carta e penna, e all'interno del programma, in via del tutto eccezionale, ospite in diretta telefonica a partire dalle 12.30, Jerry Calà, che torna sul grande schermo dal 23 maggio con il film Operazione Vacanze, diretto dal regista Claudio Fragasso, e fra l'altro sarà presentato il singolo estratto dalla colonna sonora Operazione Vacanze, distribuito da Warner Music, già disponibile negli store digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 11 maggio. Si candida praticamente a diventare il singolo dell'estate, per cui non perdetevi questa intervista telefonica diretta qui su CRM Radio all'interno di Carta e Penna a partire dalle 12.30 insieme a Filippo Glorioso, con l'ospite appunto d'eccezione che è Jerry Calà. Intanto noi continuiamo con la musica sempre richiesta da voi, e arrivano i Coldplay con Charlie Brown, uno dei singoli più belli di questo nuovo lavoro discografico di questa band straordinaria che sentiamo subito. What they offered me to set me free. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Happy Radio. We'll be right back.